Matteo Lepore. Noi abbiamo proposto un programma che ha come obiettivo quello di portare Bologna ad essere tra le prime 100 città europee ad impatto zero nel 2030. Questo significherà partecipare non solo ad un bando della Commissione europea, ma ad impegnarci a individuare un quartiere. Noi proponiamo il pilastro per realizzare investimenti di rigenerazione degli edifici dal punto di vista energetico, una mobilità sostenibile che sia da esempio e che si possa replicare nel resto della città. Proponiamo un piano per la mobilità sostenibile a livello di città metropolitana, dove dobbiamo ridurre l'utilizzo dell'auto privata inquinante. Vogliamo investire maggiormente sul servizio ferroviario metropolitano, che pensiamo debba essere più efficiente, quindi non passare soltanto ogni ora ma ogni quarto d'ora 10 minuti. Proponiamo la realizzazione del tram e una politica che sia legata a una riduzione dei consumi e alla lotta allo spreco, una politica di educazione alimentare che coinvolga le scuole a tutto tondo sui temi dell'educazione ambientale. Il nostro impegno è quello di dare vita all'inizio del mandato alle assemblee per il clima. L'emergenza climatica è stata inserita già nello statuto del Comune di Bologna, le assemblee partecipative che consultano i cittadini su quelle che sono le scelte da fare per raggiungere la riduzione dell'impatto e la lotta al cambiamento climatico vanno in questa direzione. Il nostro obiettivo in conclusione è quello di tenere insieme gli obiettivi della transizione ecologica con quelli dell'azienda sociale. E per questo inseriremo anche nell'amministrazione delle novità, come la creazione di un dipartimento che si occupi proprio della lotta alle disuguaglianze.